programma di e con Ale Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone e alle riprese video eccezionalmente Matteo. Allora, buonasera a tutti, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Piazza Alta da cui ci state vedendo, siamo tanti. 9 di dicembre. Bravo, iniziamo a mettere i puntini su. Chabalon non ha puntata, non il 9 di dicembre. Esatto, e qui la cosa prende piede. Esatto, e siamo in una nuova location che non è più la Costa di San Rocco, dove torneremo più avanti, ma stasera siamo da lo studio di Ferraro Fotografia. E chiaramente nessuno c'è conflitto di interesse, perché vabbè, è un cognome come un altro. No, il problema è tu, che tu fratello, che... vabbè, non era questo. E siamo tanti, siamo forse 5, 10, 15. È una serata veramente più numerosa e forse sono attesi ulteriori ospiti. Iniziamo subito con questa cosa qua, che è fondamentale. Dovete condividere questa puntata, e se condividono c'è tanto amore, tanto per, amore tutti. per tutti. Allora, detto questo, e purtroppo ci tocca un primo brano musicale. Un primo brano che il gusto fine, raffinato di Simone ha selezionato per noi. Tra l'altro, per chi ha occasione di seguirci anche sui nostri spot, vedete che l'amore cresce fra Marcello e anche la violenza di pari anche la violenza. Io ho sbagliato fogli, non ho la musica, ma meglio di così. Ma guarda, ce l'ho io. Facciamo l'annunci te. Foxhound Moving Black, disco Concorde del 2012, vero? Sitting back, 'cause I'm moving back. Just say it was the one. Moving back, 'cause I'm sitting back. 'Cause I'm moving back. Just say it was the one. Moving back, 'cause I'm sitting back. 'Cause I'm moving back. Just say it was the one. Moving back, 'cause I'm sitting back. 'Cause I'm moving back. Just say it was the one. Back. Moving back, 'cause I'm sitting back. 'Cause I'm moving back. Audio, ricordo per chi magari non sapesse come funziona che è possibile riascoltare anche in registrata audio con il nostro podcast da domani, che Simone immancabilmente metterà a disposizione. È bello perché se ti ascolti un podcast e dici da domani lo puoi ascoltare, però se lo stai ascoltando è già domani. Andiamo avanti. Okay. Detto questo, di che cosa parliamo, caro Marci, questa sera? Stasera, per fortuna, parliamo di un tema in cui io sono praticamente nel mio centro. Certo. Sono un asso. Cioè, lo sport. Ma non lo sport così, ma lo sport alla grande, direi. Perché parliamo sostanzialmente di un'associazione che, qui delle nostre zone, della Ronda Ghibellina. Io comincerei subito a chiedere un po' ai nostri ospiti. Magari per il podcast anche sapere chi ci abbiamo qua al tavolo. Infatti, abbiamo, alla mia destra potete ammirare Tatiana Maccherini, alla sua destra Caselli Cristian, alla destra della destra alla destra della destra Renato Menci e Ita Mazzotto all'estrema, alla destra, all'estrema destra, praticamente alla sinistra dietro. Ita Mazzotto, come ci si trova all'estrema destra? Insomma è una posizione un po' scomoda, ci vuole anche del coraggio, agli estremi insomma non si sta tanto. Dunque, quindi tutta questa bella gente, premessa per dire che cosa? Per parlare di sport. Però di uno sport molto particolare. Tatiana, che tipo di sport è? Fate. Ora c'è curling. No. Trail running, praticamente è corsa in natura. Corsa in natura, che già di per sé, secondo me, scusa, necessita perché, di... Sì, perché Marcello di... già si immagina voi che correte tutti nudi. Io ve lo dico. magari potrebbe anche piacere. No, perché ho bisogno di un po' di un occhio luccicava. Ci sono anche questi, anzi che inizia anche lui, guarda, state perché comunque c'è, Enzo, per lo sport la gente va motivata, ognuno ha il suo spunto di motivazione. Quindi te così saresti motivato. Non lo so, ma ci posso pensare, ecco, vai, potrei vai, essere possibilista. Il problema dopo come fai a mettere il pettorale, come metti i spilli. Ma sai, io sono... ma lui gli piace, ma io gli appendo, sono quei dentali. Non entriamo in queste cose. Allora, innanzitutto fate parte di un'associazione, partiamo proprio dall'inizio. Sì. Parla lei, presidente. Va bene, ho questo incarico e lo voglio portare avanti, giustamente. Sì, l'associazione La Ronda Ghibellina, che è nata per promuovere una corsa podistica. Sì. In seguito, visto che ha avuto sempre più successo, ha avuto sempre più entusiasmo e abbiamo creato anche una squadra podistica, per cui i più sciagurati della zona li abbiamo raccolti in questo reparto d'elite e abbiamo cominciato a divulgare. Siccome dopo la legge 180 vedo che l'ultra trail e l'ultra maratona ha avuto un forte incremento, siamo sempre più numerosi. Perfetto, ecco, ma non a caso la legge 180, ora a parte le battute, perché l'ultra trail parla di percorsi e distanze tipo... L'ultra trail parte da sopra i 42.195, perché diciamo dai 43 km e poi non ha limiti. Abbiamo gente che ne ha fatti più di 300. Ma infatti poi parliamo di passa tutto. E poi abbiamo persone che ne fanno anche 500 a tappe o in un'unica soluzione. Dopo ce lo dici, E nasce quindi questa associazione per organizzare questa corsa, sì, che si chiama Ronda Ghibellina. Sì. Partiamo proprio da lì, perché io... Fino a che non ho capito che si trattava di una corsa, pensavo fosse una rievocazione storica, ovviamente. Immagino che tragga comunque qualche spunto almeno da questa cosa. Sì, allora, è una gara trail, per cui si corre per i sentieri, i viottoli, tutto quello intorno che... Intorno a Castiglion Fiorentino. Intorno alla Val di Chio, perché si chiama Ronda Ghibellina, perché praticamente ripercorre il vecchio confine medievale del comune di Castiglion Fiorentino. Siccome nel Medioevo Castiglione è nato come Ghibellino, poi dopo i fiorentini l'hanno conquistato, e quella è un'altra storia, però è nato come Ghibellino, per cui Ronda Ghibellina, perché gli atleti fanno il giro di ronda del confine, molto semplice, perché chiamarlo trail era semplice, Ronda Ghibellina rimane un po' nell'immaginario. Hai visto, l'avevo detto? No, l'avevo detto io. Era un nome che era affascinante proprio anche perché la ronda era quella che un po' proteggeva i vecchi confini di una volta del comune. Sì. quindi nasce per questo, tra l'altro appunto questa gara è diventata importantissima, guardavo l'ordine d'arrivo dello scorso anno, oltre 800 partecipanti. Sì. Di quelli i arrivati partenti non... quanti erano, scusa? Allora, gli iscritti erano 1040 e qualcosa, poi dopo c'è sempre una settantina di persone che per vari motivi non si presentano, per cui sono partiti 950-960 partenti. Anche l'organizzazione, poi dopo entriamo nel vivo proprio della corsa, ma anche l'organizzazione, voglio dire, deve essere abbastanza complessa con questi numeri qua. Sì, perché il problema maggiore è la sicurezza. Perché mentre si corre in strada è molto facile, perché io metto un'ambulanza al centro gruppo, un'ambulanza in fondo, se qualcuno casca in terra lo raccolgo e lo porta al pronto soccorso. Più o meno funziona così. Invece li perdete. Nel trail è un problema, perché se uno si fa male non ci arrivi con i mezzi, o ci vai con una jeep o qualcosa, per cui... Pardon? Ci abbiamo i salutacci. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Vai. Così prendi la mia nuca, anzi guarda, faccio così. Ale, vai. Vis-à-vis. Ed è vero che nel vostro caso, anziché le ambulanze, per recuperare i dispersi ci sono i lupi? Sì. Viaggio, non siamo al servizio scopa. Quelli che non sono recuperabili ci pensano. Oh, e... Volevi fare una domanda intelligente? No, ne avevo fatta solo una. Questa sera era posto. Ok. E quindi nasce... fate queste gare, questa corsa diventa importante, a un certo punto dite ma perché non iniziamo a correre anche noi? No, io prima ho cominciato a correre ecco. E poi mi è venuta l'idea di portare la corsa qui in Toscana, perché il trail non è, il trail è nato in America 60 anni fa, poi dall'America 10 anni dopo in Francia, in Italia è arrivato da 10-12 anni. La prima gara che io ricordi lo facevano il Giro del Monte Bianco, è stata la gara capostipite, e siccome era di confine gli italiani andavano a correre lì, io sono stato il secondo anno che la facevano, sono stato lì, mi sono presentato, per cui era un mondo completamente diverso. Io mi sono presentato con una scarpa e una ciabatta, mi guardavano come fossi lo scemo del villaggio, perché giustamente non ero vestito in maniera idonea e tutto quanto, per cui dopo 70 km ero completamente fulminato. E l'altro è ancora girato. Però è stato bello. Però sì, come le cose traumatiche ti lasciano il segno. Certo, poi, certo. Ci sono ritornato anche l'anno dopo, poi l'anno dopo ancora, e poi alla fine ho detto, beh, riproponiamola a Castiglioni. Ho trovato un po' di persone che erano disposte a darmi una mano per organizzarla, e poi da lì è partito tutto il progetto. Questo è uno sport che sta prendendo tantissimo. Vedo... tranne me e lui praticamente corrono tutti. Cioè, ma io ci sto pensando. Sì, sì, c'è speranza. Come me lo spiega? Perché? Perché la gente, e non solo appunto va per strada, ma inizia ad andare per boschi? La gente è cominciato per strada, adesso sta andando per le montagne perché si è stufato delle macchine, si è stufato dell'asfalto, poi un po' a moda. È un po' come le bici da strada, poi a un certo punto sono venute fuori le mountain bike. Sostanzialmente siamo la stessa cosa. Una ricerca della natura. Sì, da un punto, prima era uno sport più elitario, ecologisti. Io mi ricordo le prime gare che andavo a fare, ero tutti vegetariani, io mangiavo la carne, mi mettevano un croce, mi mattopivano. Adesso un po'. Per cui sta prendendo sempre più piede, anche perché è divertente. Poi c'è chi lo fa in maniera tranquilla e spensierata, come lo posso fare io, e basta. Ecco. No, ho guardato chi avevo portato, mi sono accorto che io e basta. Poi da questa parte qui c'è gente che cammina. Bravo. Ma anche di là. Sì, iniziamo di qua, poi magari andiamo di là. Per esempio, Tatiana, che è nostra compaesana, e certo, leggiamo di quando in quando che raggiungi, spesso direi, sì, che raggiungi vette, e anche nel vero senso della parola, proprio perché inarrivabili, per, insomma, si vede anche dalle facce, insomma, sono inarrivabili. Raccontaci un po' come hai iniziato e i risultati migliori che hai avuto, come hai fatto, perché lo fai. Quello me lo domando tutte le volte, però... diciamo che la prima gara ultra che ho fatto è stata proprio la Ronda Ghibellina 3 anni fa, cioè nel 2014, e l'ho fatta un po' così, senza sapere realmente quello che era, perché avevo fatto distanze fino a 20 km, 27 così. Ho provato questa 44 km, mi è piaciuta tanto, sia per il paesaggio, poi proprio lo spirito con cui si fa questo tipo di gara. E mi sono appassionata. Tra l'altro anche l'edizione è andata abbastanza bene per me, perché arrivai ottava con, insomma, nomi di un certo livello, e quindi ho continuato. E da lì hai capito che potevi avere un futuro sul treno. Sì. Bene. Sì, futuro, cioè comunque era la strada che avrei voluto percorrere, questo sicuramente. Cioè, hai ottenuto risultati importanti che ci racconterai te, perché io non sarei in grado di dirli. Però ho sempre aumentato la distanza, il dislivello, poi che non c'è un limite a questo tipo di gare, perché più fai e più vorresti fare. Che cos'è che spinge a fare quel passo in più tutte le volte? Non lo so, è la soddisfazione che ti regala questo sport. Quando arrivi in fondo, anche se sei stremata, finita, a volte non sta nemmeno più sulle gambe, però ecco, quello che ti porti a casa è una cosa troppo bella che lo vuoi riprovare un'altra volta. Sempre di più. Hai detto una cosa che mi ha colpito, perché te hai detto che vi godete anche i paesaggi, no? ma perché avete anche la lucidità a un certo punto di godervi il paesaggio? Sinceramente, non sempre. Capita di ritrovarti in dei luoghi in cui non puoi non guardarti intorno e quindi il paesaggio lo noti e come. Però quando sei in gara è la gara che conta, insomma, vai, certo. Cioè entra una sorta di agonismo che comunque ti porta ad arrivare alla fine. Cioè io non credo, cioè il solo paesaggio non basta, ecco, ci vuole anche tutto il resto. Tutto il resto. Aspetta, però suggerisco una domanda. No, ce l'ho. No, ce l'hai, scusa. Però la volevo fare a Cristo. Allora aspetta, facciamo così. Sì. Un brano musicale. A quanto siamo, ecco, Simo? Che non ci ascolta più. Ecco, facciamo un po' di avrei bisogno di un brano musicale. Sì. Ma di quelli che piacciono a Marcello. Ma decente. Decente non è possibile. Aspetta, trasmissione. Rebel Eye at the microphone, Mr. Zebra. Legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a un wicked man. Soy legal, quiero mi ganja legal, porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal, si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganja legal, sembrarla, cuidarla y cosecharla. Vamos a aprender que es hoy la María, que quiero fumarla todo el día. Es natural y no contamina, el espíritu mío llena de vida. Con de ganja vamos a quemarla, aspira profundo hasta que arda. Suelta el humo, deja que salga toda la vibra que a tu alrededor se expanda. Smoking marihuana, I'm feeling so fine. Smoking in machalwa, I'm feeling so high. Smoking marihuana, I'm feeling so fine. Smoking my herb, my herb, my herb. Legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a un wicked man. So legal, quiero mi ganja legal, porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal, si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganja legal, sembrarla, cuidarla y cosecharla. Red Eyes. Red Eyes y mi mente. Red Eyes y mi mente se eleva, medita, piensa, comprende, se alegra. Real conocimiento de la madre tierra, son nunca podrán acabar con ella. Michelle haga en conciencia y natural, el Señor nos regaló para poder abrir los ojos y ver la solución a todos los problemas que nos brinda Babilón, a esas ilusiones que llenan tu vida hoy. Healing of the nation, mystic vibration in all the iration. Ganja. Ganja, mystic vibration in all the iration. Orgánica y natural, sin ningún aditivo artificial, pues de la tierra nace y para el hombre va. No te dejes engañar, oh joven ganja man, que tú no estás haciendo nada mal. Waldem, es esta sociedad que no permite ya poder abrir los ojos y ver la verdad. Ellos dicen que la ganja me hace mal, pero más mal me hace que me quiten la libertad. Look in the book of life, escrito está que la ganja el hombre debe de usar en su meditación o para sanar. Hay tanta cosa positiva que te puede brindar. Soy legal, quiero legal. Dejar de comprarle a un wicked man. Soy legal, quiero mi ganja legal. ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal, quiero mi ganja legal. Si la fuman políticos porque pa' mí está mal. Con grande rammarico torniamo in onda perché il brano ci piaceva da morire. Io, guarda, ma Marcella è insistito tanto. Da capo un paio di volte. Allora, siamo arrivati a 800. Condividete questa puntata. La settimana scorsa abbiamo fatto ci avete visto in 1400, ma non ci avete proprio niente ecco, io da fare. Ho visto sì, bravo. Il 1400. Applausi. Volevi fare questo? Sì, esatto. Non è vero. Ma è vero, negli occhi. Perché nel pensiero non è possibile. Allora, Cristian. Ecco, stiamo parlando con gli amici della Ronda di Bellina. Dei tuoi problemi, perché ho capito che la cosa è anche un momento di sfogo, di scarico. Quando hai iniziato? E come pensi di uscirne? Ma uscirne è un po' un problema. Vabbè. Ho iniziato per scommessa nel 2013 davanti a una birra e una sigaretta al bar, 7 giorni prima della Ronda Ghibellina. Evidentemente l'hai persa la scommessa. No, l'ho vinta. Dopo 13 anni di calcio, portiere perché non avevo voglia di correre, persa. Ho fatto la mia prima Ronda Ghibellina, lunga, senza aver mai corso. L'ho finita benino e da lì piano piano... Non è vero, dopo 6 mesi correvo già le 100 km, però insomma... Ma fermiamoci là, perché non puoi dirlo così. Allora, innanzitutto abbiamo detto 500 km, giusto? 530. Ma a quel punto quando arrivate 500, 30 più 30 meno... 30 sulla marcia. Niente, così per scaricare. Invece al massimo, Renato? Io massimo 202. 202. E Cristian? 340. Tatiana? Io 170. A questo scusa, punto... sì. Marcello? Io, ecco. Anche con la macchina. Anche con la macchina, sì. Allora vado, anch'io. No, okay. Io... A questo punto, no, mi volevo chiedere quanto consuma, cioè con quanti litri... No, però, bravo. Di birra? Lui litri di birra. Ma è chiaro che la birra aiuta a correre, la birra, no? Coca-Cola. La Coca-Cola. Questo fa pensare. No, io la domanda intelligente che avevo, che spero che venga percepita così, è che nella mia percezione il trail, proprio per i percorsi che va a fare, viene fatto in percorsi sconnessi, in terreni sconnessi. Quindi quello che per te questa è stata una rivelazione. Questa è intelligente. Pensavo che te stavi dicendo prima a Tatiana sul paesaggio, i luoghi ameni, eccetera. Qui c'è, ma da guardare dove metti i piedi. Bravo. Mi sono anche risposto. Facciamo uno stupore. Era partito male, ma recuperato. Ma a me, guarda, perché non mi lasciano. Mi salvano queste niente. Se ti voglio anche una risposta, tanto per farlo contento. No, hai ragione. Ascolta, se me la lasci cadere, notoriamente hai ragione e chiuderò. Senti, ed è così anche per te, perché se trovo una sala che mi dà ragione stasera, ragazzi, si chiude. Ma io nell'ultima, che è durata 4 giorni, dove ho dormito una sola ora in 4 giorni, che hai sognato? No, c'ho avuto l'allucinazione per 2 giorni, gli ultimi 2 giorni. Guarda, siamo un quarto d'ora su sta cosa, abbiate pazienza. Parte dalla mucca che è il pezzo forte. Vai, ecco, raccontaci sta gara, guarda. No, diceva lui, forse il pezzo più eclatante, a parte le ultime 6 ore di gara che non ho ricordi, se non che pensavo che il mondo fosse finito e che i miei genitori mi avessero abbandonato. Però a parte quello, no, perché l'unica persona che ho trovato nelle ultime 12 ore di gara era una persona con un cane. E ricordandomi io sono leggenda, che l'unico sopravvissuto era lui col cane, io pensavo che il genere umano fosse finito. C'è di più te però, perché c'era il cane... Ecco, quanti chilometri erano questi? Qui sarà il 330esimo più o meno. E Valle d'Aosta. E che ti ha ritrovato? No, scherzo. No, no, siamo contenti che sei qui. No, perché come diceva lui, forse la scena più bella è stata la terza notte, quando preda allucinazioni varie, ho cominciato a sentire freddo, sera a 2008, e ho pensato che dovevo dormire, perché avevo dormito solo 20 minuti in 3 giorni. Però dico, se mi metto vicino a un sasso è freddo. E allora c'era una bella mucca fumante, mi sono appoggiato alle 10 minuti a dormire e poi sono ripartito. No, guarda, io difficile andare avanti. Dice, no, che potrebbe rispondere? Ora no, allora potrebbe prendere. Sono fatti veri. Allora, alla mucca lui ha chiesto, hai da accendere. Ma ecco, l'hai più rivista la mucca. Ma una domanda seria, che è una contraddizione di qui dentro di una domanda seria. Ma dici che nelle ultime sei ore, per esempio, non hai avuto grossi, non hai grossi ricordi? No, no, proprio punti, no, punti. Solo questo. Ecco, solo la mucca. No, no, la mucca no, era no, la terza no, volta. Ah, no, il cane Colomino. No, perché dice che nelle ultime sei ore i ricordi sarebbero stati a seguito dell'autopsia. No, ma come arrivi dove devi arrivare? Se non ne sei più lucido. Ah, non lo so, io ho ripreso conoscenza 100 metri dall'arrivo. Questa è una cosa impressionante. E che cosa hai visto nel momento in cui ti si è riacceso? Ah, mi sono messo in ginocchio a piangere perché di qua è finita. Dicendo non lo faccio più. Sì, no. L'ho pensato per tutta la gara. Dunque. Però com'è finita, dico ora mi iscrivo il prossimo anno. Esatto. Beh, questo tanto. Quindi abbiamo se entri in terapia non è che dà dipendenza. Ma assolutamente. È perché rilascia, no, scientificamente rilascia endorfine. E praticamente ti crea lo stesso effetto di una droga, cioè sì. Praticamente sei tossicodipendente. Diventi un tossicodipendente di quelle endorfine rilasciata dalla corsa. A una volta si pagavano dei riscatti. A questi livelli ovviamente non è impressionante solo la distanza che è impressionante, ma anche il dislivello, che è una cosa inimmaginabile. Per esempio in questa gara qui che ci stai raccontando, allora solo positivo, quindi solo di salita 30.000 metri. Quindi sono... Ma vai via, dai. Ma non puoi stare qui con noi a sedere. Ti volevo chiedere scusa perché ti sei fatta un'ora fermo, però dopo ti riprendi. Sono punta dei piedi. Ecco, dormi un'ora in quattro notti. Già è fisicamente... Poi lo chiedo anche a voi, ma ormai sono rimasto affascinato da questo caso umano. Insomma. Dormite un'ora in quattro notti. Già è impensabile farlo quando non fai niente. Realmente davvero il fisico come fa a resistere? Ah vabbè, comunque ce lo devi allenare, eh. Io a luglio praticamente più di 3 ore a notte non ho mai dormito. Senti il silenzio. Riposato. Anche Marcello lo faceva, ma quando andava in discoteca. No, anche io lo facevo. Ah, andando in discoteca. Noto discotecario. Un altro ospite, buonasera. Buonasera, buonasera Presidente. Non c'è più posto, però ti puoi accomodare qui accanto a noi. Là, perfetto. Dicevi che abitui il fisico? Sì, ce l'ho abitui. Poi dopo sono tutte motivazioni, perché dopo 10 ore io sono stanco come tutti, cioè vorrei smettere come tutti di correre. Però poi vai avanti, ti abitui a correre nella stanchezza e nella fatica. E la prima notte passa bene, la seconda un po' dei problemi, la terza ancora più problemi e la quarta ti fa il segno della croce e speri che passi. Fermarsi in un autogrill no, eh? In un autogrill no, ma ci sono i rifugi di montagna con la polenta, che l'anno prima, perché io è il secondo anno che la faccio, l'anno prima che l'ho fatta un po' più tranquillo mi sono fermato a mangiare la polenta, lo spezzatino ai rifugi, però la classifica un po' ne risenta a quel punto. Infatti, e poi passiamo a Renato. Secondo me il primo obiettivo è arrivare in fondo. No, no, il primo obiettivo sì, è arrivare in fondo, però dopo insomma, poi però conta anche come arrivi. Oddio. Quindi come sei arrivato te in questa decimo gara? Ah, decimo. Ma allora a livello assoluto? Sì. Su io 900. Ho quasi su 900. Paura, Scusa, aspetta, quanti chilometri erano? 340. Ok, 30 chilometri di dislivello solo in salita. Sì. Quanto ci hai messo? 96 ore e 36 minuti. Di boschi, no? C'è una rubrica proprio a chi l'ha visto. Intanto ne perdo uno. No, però ho trattato male i miei genitori perché mi hanno portato la pizza al cima a un rifugio. Ma questo sempre nelle allucinazioni? Sì, ah, sì. Perfetto, non è importante. Ecco, Renato. No, però ci tengo a dire una cosa. C'era anche lui con me. E anche lui è andato bene? No, abbastanza. Si calma, è arrivato. Lui ci ha mangiato la polenta e il pane. Ma comunque... Ha dormito. Cioè il fatto che sia dormito... Ha fatto 330 km. 340. Scusa, Se no salsa. No, mi dà lei quei 30 che non gli volevate dare. Bravo, giusto. Ecco Renato, te sei il presidente di questa cosa, quindi voglio dire, tanto normale. Te invece hai avuto mai storie di allucinazioni da corsa? Sì, sul Monte Bianco, quando l'ho fatto il secondo anno, allucinazioni vere e proprie no, però di dormire camminando sì. Guarda, ma questa è una cosa, voi la dite come se fosse una cosa normale. Va provata davvero, cioè, ma dormi sì, ma dormi un infinitesimo di secondo, perché poi i grandi ti cedono, oppure riesci ad andare in un burrone perché stai camminando in una cresta, ma quando ti prende il colpo di sonno, dovresti avere l'accortezza di fermarti, dormire a 5 minuti, perché c'è la tecnica dei microsonni. Tra l'altro, come succede in macchina, succede correndo. Certo, il problema è che quando sei lì, o perché è il freddo, non trovi mai il posto giusto. Non è, dice, io programmo di dormire quando sono andato lì. Quando ti prendi, generalmente è il posto più scomodo. O trovi la mucca, ti tocca continuare. Insomma, però dopo gli devi pagare l'alimento, è caro, Già se trovi la mucca è un lusso. Per cui, ti ho detto, la situazione la gestisci lì per lì, però c'è la tensione, l'adrenalina, sono tante cose che ti tengono più sveglio che in una situazione normale. Ecco, spieghiamo, ora io qualcosa mi sono leggermente informato, quindi potrei dire anche grosse bischierate, ma voi avete, nel percorso ci sono comunque dei ricoveri, ristori, esatto, dove comunque veramente chi ha necessità può fermarsi, riposare, nutrirsi. Ma gente anche meno sciroccata, sempre sciroccati, perché per partire deve essere sciroccata. Però c'è gente che dorme anche 8 ore a notte, quindi la prende, con una... la prende come vacanze, non come gara. Sono tutti i ricoveri segnalati da una Croce Rossa, no? Perché certo. Sì, e finiamo questo giro in bellezza con Ita, che ne ha fatti 530. Sì, in una. Poi in una, sì, sì, beh, cioè, no, che c'entra, che siete oltre il 100.000 km sicuro, no, ormai. L'avventura è una pilota sola che sì, non si è messo. Sì. Innanzitutto, da dove vieni? Io sono adottata toscana da 25 anni. Però sei di Marte. No. Ah, no, sei veneta? Sì, ah, ok. Ok. Hai fatto... Di Lucignano. Ma Lucignano sei venuto a piedi? Ah, sì, ah, quindi sono tutti venuti a piedi stasera. Ah, scusate, cioè, loro la macchina l'hanno venduta da anni, cioè, giustamente. E hai fatto. Paga il bollo sulle scarpe. Certo. Ecco, già, quante scarpe consumate all'anno? Questa è una domanda più da Marcello. Questa è una domanda da Marcello. Falla allora ci penso, mi faccio una. No, raccontaci, innanzitutto, abbiamo detto hai fatto una gara da 530 km. In Australia, sì. No, raccontaci quello che ti pare di questa gara. Perché hai deciso di farla? Perché quando l'hai finita hai pianto, hai riso, che hai visto mucche, insomma, quello che vuoi. Beh, io ho iniziato da grande, diciamo, perché non sono più tanto giovane, ho iniziato da grande solo 4 anni fa a fare trail. Sì. Ok. Però, come hanno detto loro, è una cosa che ti prende, insomma, non riesci a farne a meno, per cui ho iniziato a allungare le distanze. Ho letto molto del mio mito e Marco Olmo, che è un signore di 68 anni che l'anno prossimo fa la sua 21ª Marathon de Sable, che è una gara in autosufficienza, perché a parte queste gare non stop, ci sono queste a tappe, sono in autosufficienza, che vuol dire che non solo non ci sono i ristori, ti porti tutto nello zaino, quindi tu vai via. Questa in Australia era in 10 giorni, 10 giorni devi portarti da mangiare, i vestiti, per 10 giorni, per 10 giorni, sì, 10 kg sulle spalle. Pensa alla mia ragazza, che non gli basta lo station di partire lì, è bello perché devi fare un calcolo delle calorie e del peso, quindi cerchi di mettere più calorie possibile con meno peso, quindi okay, non so, polenta disidratata, polverine, frutta secca, un prosciuttino, poi atleti. C'è Poi è divertente perché, per esempio, quest'anno ho fatto anche la Marathon de Sable e avevamo la tenda italiana detta Masterchef, perché noi avevamo i tortellini, le cose, insomma, un po' non solo le pappette disidratate degli astronauti, insomma. Esatto. Ah, vieni da Marte allora. No. E questa in Australia era da Alice Springs, quindi il centro dell'Australia, fino alla grande roccia rossa. Ah, ok. Quindi, e dove non ci sono neanche gli aborigeni, non c'è più nessuno. Anzi, c'erano degli aborigeni che dicevano: ma dove vai? e sei partita? Siamo partiti, siamo okay. Qua. All'arrivo, quanti? Eravamo una quindicina. Ah, non eri tanti, no, non questo, tanti. Solo quelli più gravi. Lo sai perché, Enzo? Perché in Australia ci si arriva a nuoto, eh. Per fare questa gara, la fai prima tutta a nuoto, quindi sono quelli che sono arriva la fa a piedi. Lungo. Allora, e partite in 15. Sì. Siete stati tutti insieme oppure qualcuno si è staccato? No, io ho fatto quasi tutto da sola. I primi tre giorni, perché le tappe erano un po' più corte. Poi c'era l'ultima tappa che era 120 km da sola, quella qui con 400 e passa chilometri sulle spalle, sulle gambe anzi. Sì. E lì hai avuto almeno un'allucinazione? Sì, la notte, perché è partita la mattina, sono arrivata all'una di notte. Insomma, la notte ho fatto veramente fatica. Poi c'era questo stradone dritto, un freddo terribile di notte, era molto caldo di giorno e molto freddo di notte. Allora mi sono messa il sacco a pelo intorno e guardavo le stelle cadenti e contavo le stelle cadenti. Io, una per figlio, poi dico va un altro, devo vedere un altro. Cioè trovi delle motivazioni, cioè te le inventi. E poi inizio a pensare, ma io il giro che faccio a casa di 10 km quando mi alleno qui a Lucignano, no? Parto di casa e vedo, non so, quella casetta lì, allora cercavo di immaginarmi quel giro e continuavo a rifare quel giro. Miseria, cercavo motivazioni per stare in piedi. Ma quando sei arrivato, dunque, aspetta, non so... Hai obiettivi ancora più importanti adesso? Adesso, beh, quest'anno spero di rifare il Tor che ho fatto anch'io l'anno scorso, ma quest'anno no, cioè l'anno prossimo spero di fare il Tor. Quest'anno ho fatto una gara in Scozia di 400 km che mi ha fermato un paio di mesi perché mi sono consumata un po' oltre le scarpe, il ferro. Io se mi permettete ho una curiosità, perché stasera sembra che insomma discorriamo in maniera anche abbastanza distesa, consapevole eccetera. Ah, noi due sì, perché noi due sì, sono loro che soprattutto fanno... loro. Dopo quanto tempo, anche a livello sia fisico che mentale, sentite di aver recuperato tutto dopo questo genere di sforzi? Perché ma sicuramente mette a dura prova. Ora l'allenamento sarà dopo un'ultra maratona lunga, cioè, anzi c'è una specie di questa adrenalina che funziona, che uno riesce a correre ancora anche la settimana dopo, anche un'altra distanza lunga, insomma, si sente, lì per lì si senti molto bene. Poi sì, poi io non corro ai livelli che corrono loro, che sono molto più... Allora, più intensità. Più intensità, poi magari correrò più ore perché corro più lenta, per cui comunque... Dipende dall'allenamento, l'importante è la costanza, cercare di continuare, non mollare mai. Ah certo. Poi bisogna avere la testa, perché uno va più tosta. E poi se ti posso permettere, Cristian ha tirato fuori anche il sentimento. Con la mucca. Con la mucca. Secondo me è lì lo snodo. Infatti per una settimana è diventato vegano. Perché non le mangio più, giusto. Però avete anche raggiunto, a parte tutto, dei risultati importantissimi. Ricordatemi un paio voi, i vostri, senza modestia, dai, tanto avete fatto cose importanti. Oppure il presidente, visto che sono tutti in Rio. Bravo, presidente. Ricordati. Il risultato più eclatante di Cristian, il decimo posto al Tor, vuol dire entrare nell'elite mondiale, non che stiamo a giocare intorno alle parole. Tanto mondiale. Non lo dici, lo dico io. Dobbiamo andare via. Se c'è l'elite mondiale, fa? Non lo so. I risultati stessi di Tatiana sono... ottimi. Ogni volta che si è presentata qualche competizione, quando si è presentata con le più forti al mondo, ho sempre stato tra le prime italiane. Per cui a volte ci sono persone che non sono arrivata prima, e poi vai a vedere che era l'unica donna in gara. Certo. Lei non è mai successo. In gara da 10 km. Ha sempre avuto un crescendo. Poi, mentre, ora non per togliere qualcosa a Cristian, ma Cristian ci investe molto tempo, c'ha tempo per dedicare allenamenti e tutto quanto, la Tatiana il tempo ce n'ha poco, perché oltre al lavoro, la famiglia, i figli, certo, va a ricavare un'ora di qua, un'ora di là. E poi la cosa più assurda, che una persona che corre nelle paludi della Chiana poi va a correre e vincere nelle Alpi, che è un po' strano. Daita fa delle gare dove non si va di fisico, ma si va prevalentemente di testa. Poi anche perché dopo 10 km il corpo dice: ragazzi, basta, fermiamola qui, e la testa dice zitto e continua a camminare. Certo. Poi, a quel punto ognuno trova le sue motivazioni, si inventa delle storie, rivede tante cose per andare avanti. Si va in guida passiva. Questa dissociazione testa-corpo potrebbe interessarti. Potrebbe essere lui la fa più quasi in casa, però vabbè. Allora, ascoltiamo un altro brano e poi facciamo uno stacco sulla Fantachiana, perché troppo sforzo fisico non va bene. E la Fantachiana invece è pizza. L'appuntamento importante. E concluderemo con. Con la settima edizione della Ronda Ghibellina. Poi ci sono quelli sprint, quelli che le fanno da 70-50. Loro sono sprint, però sono ragazzi a velocità. Questo è una volta, ragazzi. 70 km. Io, lui è ragazzo, Melisa. 80. Bra, io ragazzi, cioè, l'ammirazione è sconfinata. Non ho provato anche una volta a fare una gara, ma lasciamo perdere. Una, infatti, poi ho smesso proprio quel discorso della testa che mi ha detto: mando vai. e le ho smesso, quindi l'ammirazione è ancora più grossa, perché sai, lui non ha proprio idea di chi probabilmente sta parlando. Frequenti gente, cioè, che non ti stimolano. No, ma te proprio non hai idea, non hai proprio le distanze proprio non ti... Io almeno ci ho provato, ma è andata così. E ora un altro brano di quelli che invogliano Marcello a correre. Seguendo e non vedendo, ma è il momento Fantachiana, perché dopo un è il momento Fantachiana, non è che si corre, noi è il momento serio, noi ora direi Enzo e anche stupore, scusate, ho fatto tanto altro. Enzo, direi allora, veramente che stasera siamo riusciti a mettere insieme i tuoi estremi dello sport. Sì, cioè, quello vero, quello vero, no, quello, vero, quello, vero, vero, quello, quello teorico, quello pensato, lo sport ci vorrei ma non posso. Sì. Allora, sono qui con il presidente della Lega. Come se ti avessi da raccontare delle... No, allora, le cariche. Intanto, il presidente di Lega, nonché presidente della squadra... No. Non mischiare i ruoli, come presidente di Lega, Matteo Cassioli. Io ho avuto le allucinazioni. Sì, aspetta, sì. Sì? Probabilmente eri dietro una mucca. No, ero Amsterdam. Eri Amsterdam quando hai avuto le allucinazioni. Allora. C'ho i testimoni. Oddio, smetto. No, allora ve lo posso raccontare in un radiofonico. Anche io, lui. Che occasione, presidente? Vicepresidente. Ho visto la Tergino 8 prima. Volevo raccontare l'allucinazione di Cassola ad Amsterdam. Vedeva i cartoni animati che giravano per Amsterdam. Ma c'erano. Ecco perché. Mamma. Non è vero. Beh, allora, finita? Fantachiana, sì. No. Ah, no, siamo appena partiti perché chiedo al presidente di Lega. Rosa, sì, fantastico. Ma è solo una scala. Rosa Maiale, si chiama Rosa Maiale, cioè giallo limone. Al presidente di Lega vorremmo chiedere un aggiornamento sulle ultime settimane del famosissimo torneo. Sì, facciamo un aggiornamento sulla penultima settimana, che è stata quella più interessante. Sì. Perché l'hai vinta te? No, quella perché lui non gioca. Ma infatti non studia di Lega. Via, via. Io sono il vicepresidente, non Gio. Lui non quello che fa i conti. Lui non lo so. Beh, cioè, beh. Niente, c'era una squadra che era in difficoltà clamorosa. Ha cambiato allenatore, ha preso Giannissimo. Che ma lo dico per voi. È tutta la strozzata. Sì, no, non è vero. No, no, nel senso... Surreale, facciamo. E incredibilmente ha fatto una remontata clamorosa. Poi Giannissimo... ha avuto degli impegni familiari e sprofondato nelle ultime settimane. Sì. Questo ci dispiace. Salutiamo Francesco Puccinelli intanto. Che... Francesco Puccinelli, detto FIHA. Ma vabbè che qui BH. C'è il BIP. Allora, io chiederei anche al vicepresidente le impressioni sulle ultime partite del torneo Fantachiana. Come ci si appresta queste vacanze? Che fatica, scusate. Fai la domanda, passare oltre. Un intervento questo rimarrà negli annali. Veramente. Allora, è una domanda seria? Sì, se vuole. Pensa che questa meriti risposta? Sì. A una lega come la nostra. Ok, andiamo avanti. Allora, così. La risposta è veramente bella questa. Al presidente Farnetani, allora io vorrei cedere la parola per parlare tema presidente Orario di la domanda diretta non risponde nessuno, ci dica quello che mi fa più piacere dire. Prego. Parla dello sport. Noi siamo secondi in classifica generale del Fantachiana. Bene. In semifinale di Coppa Chiana con la Scenocrati. Sì. Poi... No, basta. No. Io ci sono anche degli amici di Roma che ci stanno seguendo. Ciao Roberto, grazie per essere qui. Fai conto che questo Roberto intervento non esista. È il punto cardine della serata. Sì. Io però a questo punto direi che... Hanno messo anche il cappotto per venire qui. È la massima intelligenza. Volevo nominare lo sponsor che è Io M'Avvio, di Bernardini. Sì, okay. Ecco, ufficiale. Ora ha fatto una rivelazione, ma questo... Posso far vedere una foto dello sponsor? No. Ma preferirei di no. Faremo delle magliette. Ancora è velato da segreto, sponsor ci stiamo preparando per la collezione autunno, primavera-estate 2017. Meglio l'estate. Il caldo però non si sente. Lì no, è fatta apposta. Direi che vuoi dire qualcos'altro su questa fatta? Questo possiamo punto. Dire come è andata, quando ci sarà il prossimo calciomercato, tanto per dire una qualcosa. Sarà prossimamente. Benissimo. Lo faccio dimettere. Io ecco, spero che chi ci guarda e chi ci guarderà avrà capito. Che non serve siamo messi noi. Ci siamo messi noi perché le fatiche che facciamo noi, quante declinazioni dello sport siamo ci possono latini. Essere nel mondo. Fra pochi minuti torniamo e torniamo a parlare di sport minore. Qual è il trailer, non la Lega Fantachiana. Certo, perché fra pochi minuti fra pochi secondi sì, no perché c'è la musica adesso. Je cours, je vise à mon rythme, peu importe. importe ce qu'on me dit, man, tu sais, ça passe si vite. Et quand je vois ce ciel gris, je suis complice du Tout-Puissant, à quel point il m'a rendu service. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, cherchant l'amour, ouais, ouais, ouais. Non, mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, c'est laisse-les croire, yeah. Qu'on est tous égaux. Et même si je n'ai pas la tête qu'il faut, je vais prôner la paix au milieu des salauds. Ouais, ouais. Et quand j'entends que rien ne peut les arrêter, du coin des lèvres je souris car on a les clés. Les portes du changement pour Babylone c'est terminé. Donc laissez la place aux gens afin qu'ils puissent s'exprimer. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, cherchant l'amour, ouais, ouais, ouais. Non, mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, laisse-les croire, yeah. La lune m'a plus vu grandir que leur système. Alors à quoi bon passer ma vie sous le poids de vos chaînes si c'est pour servir ces loups et ces hyènes. Je marche, je cours, je vise à mon rythme. Peu importe ce qu'on me dit, Manchester, ça passe si vite. Et quand je vois ce ciel bleu, je suis complice du Tout-Puissant, à quel point il m'a rendu service. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, cherchant l'amour, ouais, ouais, ouais. Non, mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, prônant la paix au milieu des salauds. Mais laisse-les croire que nous sommes des idiots, c'est laisse-les croire. Stiamo parlando a parte questo increscioso scherzo degli amici della Fantachiana. Stavamo parlando di corse, corse e ricorse tra l'altro. Infatti, prima, mentre ci preparavamo alla puntata, ci è venuto. Ci preparavamo alla puntata. Abbiamo spostato il tavolo. Uno che corre. Com'era l'altro? Perché? Perché perché vuole arrivare. Da o, scappa. Parte, o scappa. Bella, questa proprio tira da caso. Qui potremmo andare sul filosofico, eh. Ma allora lasciamo stare. Lo so, se volete. Perché io ho un'idea: che chi corre ha problemi. Guarda, fino alla sera pensavo di no, ora ti dico la verità, qualcosina ci deve essere. No, perché è il lato oscuro dello sport, allora, non si dice in questa maniera. No, io. Oltre un certo limite diventa, non è più così salutare. Facciamo un'ultima domanda su tecnica e poi passiamo a parlare della ronda ghibellina che ci sarà a gennaio, giusto? Sì. Ma ne parliamo meglio fra pochi secondi. Come ci si allena a fare 400 km o 300? Nel senso, Allora, io una volta nella vita ho fatto una maratona, ho smesso subito, eh. Cioè l'ho fatta tutta, ma poi ho detto basta. Per quello sì. E io sono arrivato a fare il lungo di 35 km e poi dopo due settimane lui ride perché di 35 km io le fuori. No, perché così. Ora si sta preparando anche lui alla maratona. Bravo, non l'ha mai fatta. In un'ora e mezza la farai. Sì, fai un lungo di 35 perché è molto vicino ai 42, perché poi dopo due settimane, mi ricordo all'incirca, fai 42. Ma quando sei da fare 300 non puoi fare un lungo da 250 due settimane prima, o sì? Cioè intanto ci vuole anche tempo, tra l'altro. Cioè come fai? Come fate? No, a parte che ti fai, almeno io mi sono fatto una garetta da 100-150 km al mese. Una sgamba. Una al mese. E poi come lungo a luglio ho fatto 3 giorni consecutivi 20 ore. Così per fatti tu. Senti il silenzio che c'è qua, non è bello. È difficile anche no, perché per tenere conti, eh. Non è bellissimo, ragazzi. Invece te, Tatiana? No, io anch'io ho fatto una gara su, da 100 km al mese più o meno, però avendo anche poco tempo, poi alla fine durante la settimana faccio allenamenti di un'ora, un'ora e un quarto, così non è che Marco, faccio quello che posso. Dice insomma. Come vanno fatte le cose per bene. Diciamo... La stagione va un po' preparata all'inizio anno, ma come ha fatto Cristian. Quindi si parte gradualmente, si aumenta i carichi, si aumenta il numero dei chilometri. Quindi il Tor era settembre, nel caso mio ho iniziato con 40, 50, 70, poi 100, 120 e alla fine sono arrivato. Ecco, scusa Marco, ma ognuno ha la sua preparazione o diciamo... È standard. O ci sono delle preparazioni standard? Cioè, io non potrei fare sicuramente la tua preparazione. Diciamo, allora, c'è chi ricorre a dei preparatori, c'è chi se la fa da sé, come ad esempio faccio io, per dire. Poi, chiaro, devi provare in base all'esperienza e poi dopo viene da sé. E vedere il fisico e la testa come reagisce. Ci sono degli allenamenti che senti che ti fanno meglio rispetto ad altri, poi con l'esperienza... Avanti, io questo silenzio secondo me dice tutto, perché siamo tutti qui che ascoltiamo, non capiamo assolutamente, però ammiriamo, esatto. È tutto amo. Chi vuole può venire a allenarsi anche con grazie te. Guarda, come se avessimo accettato. Io lui ha anche dei problemi, no, ha avuto un'incidenza da piccino. Questi discorsi li posso fare sulla digestione. Ci ho messo 4 giorni, mi ha digerito. Però la cosa bella è anche quello che succede dopo la gara a tavola. Ma io me lo immagino. Troviamoci dopo, noi facciamo così. Perché ci credo, Renato, volevi... No, anche io volevo chiedere aiuto anche lei, per esempio, come si avvicina a fare 500 km. 500... Vabbè, che sono mentali, ma insomma anche sì, sì. Qualcosa le gambe conta. Per correre bisogna correre, per correre lungo bisogna correre tante ore, io non ho la forza loro, non ho un'altra età, però comunque corro, quando preparo una gara lunga, i 170 km a settimana di allenamento li faccio. 150, siamo disarmati. quasi tutti i giorni, insomma, un giorno di riposo. Poi è molto importante fare anche altre cose, non solo correre, quindi... Yoga, io faccio yoga. Guarda, credo che serva, a parte le battute, ma insomma, per una forza mentale serva per forza yoga, no yogurt. Se poi basta non sia bianco. Attenti, fa tutto. Io volevo dire che ieri ho fatto 4 km. Ma ero distrutto, La compagnia anche, perché in questi lunghi farli da soli, li ho fatti da sola e sono difficili, mi confermeranno anche loro, insomma, quando esce per 8-20 ore da solo è pazzesco. Per cui trovare la compagnia, trovare il gruppo, farli insieme, magari con uno scopo anche, io lo faccio soprattutto con degli scopi anche turistici, in un certo senso, perché ho girato tutti i Sibillini, ho fatto tutti i Monti della Laga, del Gran Sasso, insomma tutto quello che c'è vicino, il Casentino, insomma sono dei posti meravigliosi, si vedono dei posti bellissimi. Questo... Non riusciremo mai a parlare della Ronda Ghibellina, ma lo facciamo, però voglio fare un'altra domanda. Siamo in diretta sulla diretta. Abbiamo... Sto dicendo che vado al lavoro. E quindi appare. Ok, perfetto. Quanti chilometri fate all'anno su per giù? Un calcolo. Ma avete fatto mai un calcolo? Una Io segno allenamento per allenamento, in fondo all'anno faccio i conti. Scusa se ti ho offeso dicendo così all'incirca. Non volevo essere... Solo lui? No, e quanti ne fai? Quest'anno sto per sforare 10.000. Tagliando olio e gomme. Una cinghia. 10.000. Meraviglioso, meraviglioso. Parliamo del settimo appuntamento con la Ronda Ghibellina. Per la Ronda Ghibellina Trail. Allora, si svolgerà il giorno 29 gennaio. Come di consuetudine, l'ultima domenica di gennaio. Teoricamente, giorni della merda, i giorni più freddi dell'anno. Perché se no uno dice: scusa, ma la cuore non soffro un altro pochino. Vogliamo far mancare questa cosa. Questa pare vita. Che dall'anno prossimo c'erano anche dei cecchini. Ogni tanto nel bosco, se no. Anche perché quando. Perché quando ne parlavamo, che io volevo fare d'estate, poi se facciamo le cose, facciamole per bene. Certo. D'inverno non corre nessuno, noi corriamo d'inverno. Certo. E così siamo nati. È stata anche la nostra fortuna, perché poi adesso si corre tutto l'anno. Esatto. Però prima d'inverno ci si riposava. Abbiamo detto intorno a Castiglion Fiorentino, in Valle di Chio. Avete una pagina Facebook, un sito dove potersi iscrivere, o avete già raggiunto le iscrizioni? No, perché... Qui. No, ancora non abbiamo raggiunto. Se avessimo raggiunto già il tutto esaurito, saremmo dei mostri. Tre mesi prima. La pagina c'è, è la nostra pagina Facebook, e più c'è il sito web, che è quello della Ronda Ghibellina Trail. Le iscrizioni vengono fatte tramite un'agenzia, diciamo, specializzata per fare certe cose, perché finché i numeri erano minori riuscivamo a gestire un po' tutto noi. Adesso ci vuole della gente che lavora solo ed esclusivamente su quello, per cui devi, tra virgolette, pagare degli specialisti che ti fanno quel tipo di servizio. Per cui tramite MySDAM, che è un'agenzia che fa le iscrizioni non solo a noi ma a moltissime gare in Italia, uno può fare le iscrizioni o alla distanza corta, alla 15 km, che Ronda Assassina. Si chiama Ronda Assassina. Perché? Perché è così. Che è tutta salita e tutta discesa. È una pillola energetica quella. Poi c'è la Ronda Valligiana, che è 28 km, e quella, secondo me, per chi vuole iniziare, è la distanza migliore per vedere un po' tutti gli aspetti senza ammazzarsi. E poi c'è la 45 km, che i primi anni sembrava una distanza assurda, siccome l'asticella viene sempre più alzata, è una distanza che c'è gente che ci prova alla prima volta. No, ma loro due fanno due giri e poi la fanno. Sì. Il terzo viene per defragamento. Certo, tutti quanti, no, loro due, tutti quanti. Qui dentro sono tutti, la lunga l'hanno fatta tutti. Anche lì il dislivello? No, lì non siamo tanto, siamo sui 1500 metri di dislivello positivo. Quelle tre rampe di scale. È poco, perché adesso c'è l'idea che se non ti ammazzano col dislivello non è gara. Ah, ok. Per cui vanno tutte a cercare i 3000, 3100. Noi siamo rimasti sempre invece abbastanza. Ma noi vi apprezziamo per sul corribile. Molto vi apprezziamo. Infatti quelli che vengono dal nord, quelli bravi, ci dicono sempre: ma da voi si corre troppo, ci si stanca. Io mi stanco a fare le Dolomiti, loro si stancano a correre. Però la porchetta che c'ha finito gara la mangio volentieri. Però dopo noi abbiamo un terzo tempo rigenerante che è altamente qualificante. Da qua vedo, ecco, le prime parole di tutta la serata sono state sulla porchetta. Cioè, tutti zitti, io la porchetta ho visto un brivido che ha perduto. Solo lui che non c'è, da già un po'. Tra l'altro immagino, questo non lo so, che l'organizzazione preveda anche il pernotto per chi viene prima, eccetera. Dunque, perché questa in quante ore si fa? La gara si fa, quelli che vanno piano ci mettono 8 ore e mezzo. Che cioè, lui non l'ha mai lavorato 8 ore al giorno, per dire, pure se le corre. Mezz'ora di straordinario. Ma sì, esatto. Però ecco, appunto, si può, si arriva, sì, prima, diciamo che noi garantiamo parecchi servizi. Il buono della Ronda è che non è solo una gara, ma c'è un po' tutto un insieme che ci permette di dare, tra virgolette, un prodotto di qualità, insomma. Per cui si comincia dal sabato. Ciao. Dal sabato pomeriggio con l'accoglienza per ritirare i pettorali e quant'altro, poi dopo la sera c'è un pasta party, per cui chi viene da fuori da noi trova da mangiare. Dopodiché abbiamo sia la possibilità di dormire prima in palestra, adesso lì al centro Caritas per alleggerire un po'. E poi c'è gente che va ai B&B, alberghi e quant'altro, dipende dai portafogli, c'è chi va col camper lì al Palasport, per cui le sistemazioni sono molteplici, onestamente. Mi hai fatto venire una domanda che forse solo Marcello potrebbe fare. Alla fine di questa gara una doccettina bisognerà farla, no? Perché, insomma... Ma non calda, Fredda, perché si può soffrire... È un lusso che non ti puoi permettere. Voi siete strutturati oppure ho visto atleti che portano dietro pompettine, cose, eccetera? No, diciamo che noi abbiamo la fortuna di... Il palazzetto dei sporti Casio Fiorentino è una struttura sovradimensionata. Che poi è in Valle di Chio, tra l'altro, quindi, esatto, all'ingresso. All'inizio della Valle di Chio. E questo ci permette di garantire a tutti, fortunatamente, l'acqua calda. Poi abbiamo a supporto anche l'impianto doccia della piscina, per cui abbiamo un doppio impianto e ci permette di sopperire a questi numeri, perché purtroppo nelle gare invernali, io l'ultima che ho fatto, dopo 4 ore di fango, mi sono beccato le docce fredde. Perché... E docce bagnate. Docce bagnate e fredde. E purtroppo capita abbastanza spesso. Il percorso, abbiamo detto, è impervio, no? Quantomeno è in mezzo ai boschi, roba del genere. L'avrete studiato una prima volta, rimane quello? È sempre quello lì? Allora, dal tracciato originale noi abbiamo tolto le parti, diciamo, più noiose, tra virgolette, per inserirci forse qualche piccola perla. Per essere romantici, per far capire che abbiamo studiato, perché non siamo proprio ignoranti. Bravo. È un po' come una collana dove noi lungo il filo mettiamo qualche perla ogni tanto. E noi ogni anno arricchiamo con una perla. Bellissimo. Tipo... bellissimo il tracciato, ma a parte le battute, all'inizio dicevamo non c'è un'ambulanza a metà e in fondo, voi li contate uno a uno, avranno un chip, non lo so, sicuramente, se vi manca qualcuno che succede? Allora, partite con le moto? Sì, il sistema, diciamo che noi abbiamo dei checkpoint dove vengono sparati, tra virgolette, i cecchini, ma, i cecchini di cui prima quindi, io sto avanti le organizzazioni. Sappiamo che sono partiti tante persone e da quel punto ne devono passare tante. Se a quel punto non arriva qualcuno, sappiamo chi non è arrivato, siccome a noi ci devono dare il cellulare, il numero di cellulare quando partire, lo andiamo a cercare per ipotesi. Un anno è successo, in fondo c'è le scope, per cui nessuno rimane non protetto. Per cui il servizio scopa si mette dietro all'ultimo e cammina. Scusa, il servizio scopa sarebbe? Sarebbero dei volontari che vanno dietro all'ultimo e praticamente rifanno il percorso. Sì, esatto. Fanno il gesto simbolico. Sì, no, ma quello, l'ho capito, però non capivo come a piedi. Per cui e recuperano le fettucce che vengono usate come marcatori del percorso, perché la gente non conosce il tracciato. Noi gli mettiamo dei pezzi di fettuccia per farglielo vedere. Okay. E la scopa ripulisce il tracciato. Oltre che fare la sicurezza. A volte succede che uno si fa male... ci può chiamare al numero d'emergenza e noi andiamo con la squadra della VAB, generalmente, che è pronto intervento, che va a recuperare sul percorso o col 4x4. Dall'anno scorso abbiamo un quad della Croce Rossa Italiana, per cui abbiamo potenziato un po' il servizio. Oppure uno che si ritira per stanchezza arriva al posto di ristoro, dove poi da lì viene riportato giù al palazzo. Quindi diciamo che l'organizzazione garantisce al 100% il recupero, sicurezza e quant'altro. Tra l'altro, se ho visto bene, oltre ad avere il patrocinio di molte istituzioni anche importanti, la manifestazione raccoglie il supporto di tante associazioni, sia di Castiglioni, della zona, ma anche oltre. Allora, l'organizzazione della Ronda Ghibellina è fatta da 4 società che collaborano per l'evento, per cui c'è la S di Ronda Ghibellina, che è, diciamo, la società sportiva necessaria per avere i permessi e quant'altro, le assicurazioni, copertura assicurativa. Poi c'è il GECO, che è l'associazione di escursionisti di Castiglion Fiorentino, che è quella che ha un po' avuto il compito di scoprire i vecchi sentieri, perché siamo andati a ricercare anche i vecchi sentieri spariti della dopoguerra e via discorrendo, sono stati ripuliti e rimessi in funzione. Per cui loro hanno fatto un po' questo lavoro da scout per assemblare un po' meglio il percorso, per andare a cercare, che so, qualche cascata che era irraggiungibile perché c'erano delle spinaie o cose del genere, hanno fatto un sentierino che ci può scendere e salire da un'altra parte per raggiungere, come si tornava, la perla. Esatto. Poi c'è la VAB, che praticamente sono i responsabili della sicurezza, per cui loro gestiscono con i ponti radio l'assistenza, tutti i volontari. Noi abbiamo un sistema fatto a sentinelle, per cui ogni chilometro e mezzo, due, c'è un volontario collegato via radio, per cui le tratte sono cortissime, proprio per garantire al massimo la sicurezza. E poi, in ultimi anni, è entrato a far parte del gruppo, il gruppo storico sbagliato di Castiglion Fiorentino, che è un'associazione di tipo medievale, però ha 240 soci, per cui, come dire, forza lavoro notevole. Questi sono i 4 gruppi fondatori che gestiscono tutto il sistema. Più abbiamo altri gruppi di supporto, che possono essere vari circoli, le frazioncine che andiamo a passare, c'è il capo del paese, che è quello che poi gestisce il ristoro e tutto quanto. Per cui coinvolgiamo tutti. Abbiamo coinvolto anche i cacciatori, che generalmente sono i primi nemici di certe cose, entrando anche loro a far parte, dando una mano, chiaramente sono responsabilizzati a non togliere le fettucce o a girare qualche freccia. Che poi sono quelli che Quelli che dire di la prima per la porchetta. Ah, no, anche la delega, no, loro sono, non intervengono la porchetta, perché noi prendiamo la porchetta diamo le penne al cinghiale, per cui loro sono pensano al cinghiale. Però c'è anche da dire che all'ultimo ristoro fanno le salsicce, le bragioli, che chi ci passa a luna di pranzo è un po' pericoloso. Cioè, fra di loro mangiano mentre voi passate, proprio. E poi fanno ciao con la salsiccia così. Guarda, mi dispiace non avere la preparazione, ancora non sono avanti con l'allenamento. Cioè, se no, solo per il ristoro. Ma noi facciamo così, noi ci offriamo come volontari all'ultimo ristoro. Potrebbe essere. Andate dietro con la telecamerina, fate ma figurati, ma noi si voleva fare due volte, prima senza nessuno e poi insieme ai puntata all'ultimo ristoro della ronda in action. Potremmo farla veramente dall'ultimo ristoro verso l'ora di pranzo in action, una diretta tra un costoliccio, una salsiccia, vengo bene, guarda che noi lì siamo anche poi posti porco di sempre a posto, ragazzi, siamo, abbiamo sforatissimo, ma d'altronde le cose erano interessantissime. Abbiamo finito con la salsiccia e il costoliccio, che è proprio il massimo della filosofia, almeno di Shyamalan. E abbiamo dimenticato qualcosa? Abbiamo detto tutto? No, diteci voi. No, e semmai una cosa mi sembra doverosa. Il premio a Finch, quando arriva, diventa l'ultimo? L'ultimo, a tutti. Questa è una cosa particolare. La cosa particolare che hanno tentato di imitarci, ma non ci sono riusciti, è che noi non diamo la medaglia, la maglietta o quant'altro, ma abbiamo il boccale. Perché per tradizione medievale il vincitore del torneo portava via la coppa, che non era una coppa come siamo abituati, ma era una coppa per bere. E allora hai detto, tutti quelli che arrivano in fondo hanno vinto il loro torneo, hanno diritto alla coppa, sicché abbiamo fatto un boccale di terracotta. Poi abbiamo pensato, ma solo quello è brutto. Allora abbiamo un riempito di birra, per cui abbiamo uno zero da 220 litri pieno di birra e man mano che arrivano con ramaiolo boccale. Solo per questo varrebbe la pena di andare a vedere, ovviamente. Io chiuderei, Enzo, lascerei la parola a Cristian, se vuole fare un saluto. Alla mucca, alla mucca. Sapevi il nome? O gliel'hai dato te? No, guarda che questa era pezzata. Sì, scilla pezzata. Era marrone. Ricordo che chiudiamo così. Grazie, siete stati spettacolari. Noi continueremo a guardarvi con un occhio... No. ammirati, certi che un giorno anche noi ci cimenteremo. È possibile, fa un male la caviglia dopo 2 chilometri alla fascia qui, ha un problema, dove va che vada. Vabbè, è l'età, ma non è vero che è l'età, però è la testa, non lo so, è un problema d'appoggio, e con questo problema d'appoggio ci salutiamo, diamo appuntamento a venerdì prossimo gli Elephant, venerdì prossimo parliamo di musica e quindi Marcello non verrà, questo io sono ferratissimo, tra l'altro se è venuto stasera può venire anche la musica prossimo. Dopo lo sport è la mia seconda materia. Sì, e ho detto tutto, grazie a tutti, siete stati tanti e fate tanti chilometri, li fate anche per noi, ma ci vediamo venerdì prossimo. Adesso assisterete a una sigla che è quasi più vergognosa di quella iniziale, abbiate pazienza. Il lato B. Vado? Che fai? Ah, così. Avete visto e ascoltato Shyamalan, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video, eccezionalmente Matteo. Matteo. Erano con noi... quelli della Ronda Ghibellina. Lo devo dire io, te devi fare Ina. Ronda Ghibellina. Ina. A venerdì prossimo. Ossimo. Ciao. Applauso.